Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, eccoci ad una delle nostre puntate speciali con le quali abbiamo deciso di farvi compagnia in queste giornate di festa. Sapete che spesso anche noi siamo incuriositi da libri e pubblicazioni che abbiano in qualche modo un legame, un'attinenza ai temi che affrontiamo quotidianamente a Salva Danaio, e così, proprio per queste ragioni, hanno stuzzicato la nostra attenzione due libri che sono arrivati nella nostra redazione molto carini, scritti in modo molto scorrevole e fresco. Ve li presento subito e poi vi presenterò anche le autrici di questi volumi. Il primo, Vivere in 5 con 5 euro al giorno, di Stefania Rossini, che viene definita la blogger low cost più famosa d'Italia. Io la saluto subito. Stefania, buongiorno e benvenuta a Salva Danaio. Buona giornata. Ciao, grazie mille. Il libro è edito da Edizioni L'Età dell'Acquario, è in edicola a 9 euro, quindi anche un bel regalo di Natale naturalmente per chi lo volesse fare, così come altrettanto un regalo assolutamente che non può mancare sotto il nostro albero, il libro Di necessità menù, mangiare da re in tempo di crisi. E una dei tre autori di questo libro è una collega, tra l'altro giornalista, una collega radiofonica soprattutto, Silvia Mobili, che saluto. Silvia, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Silvia, ti devo presentare perché intanto appunto sei una delle voci storiche del panorama adesso radiofonico italiano, insieme ad un'altra voce storica che è quella di Betti Senatore, e però avete scritto questo libro tratto dalla vostra trasmissione radiofonica di successo che va in onda tutti i giorni su Radio Capital dalle 10 alle 12, Ladies and Capital, insieme appunto ad un consulente di settore, perché lì si parla molto di cibo e naturalmente lo chef non poteva mancare ed è Sergio Maria Teutonico. Ho detto tutto correttamente? Hai detto tutto correttamente, non poteva mancare perché lui è quello che cucina. Le ricette che sono presenti nel nostro libro, fate attenzione, sono sue. Allora, certo, ma noi ci fidiamo anche se le avessi proposte tu, Silvia, ci mancherebbe altro. Detto questo, a parte le ricette che sono presenti in entrambi i libri, ci sono anche tanti suggerimenti di buonsenso su come comportarsi quando si fa il carrello della spesa, quando si fa la spesa, quando si gestiscono anche tutte le abitudini quotidiane che naturalmente impongono di mettere mano al portafoglio. E proprio con questo spirito anche che nasce il libro, comincio subito a fare una chiacchierata con Stefania Rossini, Vivere in 5 con 5 euro al giorno. Siete in 5 in famiglia, Stefania? Sì, siamo in 5 in famiglia, siamo monoreddito, mio marito è operaio, è nato tutto per caso, è nato tutto per scherzo, per gioco, ma molto seriamente, nel senso che comunque sul libro ci sono niente di meno, niente di più che la mia esperienza in questi ultimi 2 anni e mezzo della nostra, tra virgolette, decrescita. Da 2 stipendi siamo arrivati a 1 con un mutuo altissimo, e siamo riusciti comunque a ottenere un ottimo risultato, strada facendo, autoproducendoci la maggior parte delle cose di cui dispone la mia famiglia. Ecco, tra l'altro diciamo che questo libro è proprio il resoconto, la testimonianza del vostro radicale cambiamento di abitudini familiari che avete vissuto, no, in questi ultimi 2 anni, Stefania. E tu da questo momento di crisi in realtà hai potuto manifestare quella che era forse una vocazione che hai avuto da sempre, no, quella di fare da te le cose che servono a casa per la famiglia. Sì, guarda, questa crisi a me ha giovato sinceramente, perché dico la sincera verità, abbiamo la fortuna di avere comunque uno stipendio, io ho tanto tempo libero perché comunque seguo i miei bambini 24 ore su 24 e nello stesso tempo ci autoproduciamo tutto, tutte le ricette che ci sono sul libro, comunque come fare i detersivi, gli scrub, per fare anche delle ricette di cucina, perché no, c'è un piccolo capitolo anche per quello, sono con ingredienti, materie prime di prima necessità, reperibili ovunque, non ci sono ricette strane o particolari, anzi molte ricette sono fatte con materiali di recupero, stando molto attenti anche all'ambiente. Certo, c'è una frase molto bella a pagina 17 del tuo libro, Stefania, nel piccolo capitolo che si intitola Perché l'autoproduzione, e tu qua dici: perché fare è meno complicato di quanto si pensi, è così? Sì, guarda, sembra che io vivo in un altro mondo. Quando dico che mi faccio la crema in casa, che mi faccio lo scrub, che mi faccio il detersivo, il detergente, sembra che vivo in un altro mondo e sembra che sia veramente difficile. Ma io, le mie testimonianze, il mio ultimo anno di vita si è caratterizzato diffondendo queste pratiche veramente semplici. Veramente io, a parte il sapone che è un attimino un po' più complicato, tutto il resto io lo faccio con i miei bambini, e l'ultima mia bambina ha 3 anni, lo facciamo insieme. Questo a dimostrazione che sono davvero ricette semplici, forse troppo semplici, perché nel mondo d'oggi tutto sembra complicato, tutto sembra darci contro, e invece queste cose qua sono nient'altro che la riscoperta dei valori dei nostri nonni, delle ricette dei nostri nonni. E poi naturalmente ci svelerai qualche segreto e quindi raccoglieremo qualche idea utile anche dal tuo libro, specificando ai nostri ascoltatori che tu non sei Vilma, che tuo marito non è Fred Flintstone e che non vivete naturalmente nelle caverne, Stefania, giusto? In una bella cascina in provincia di Brescia, dove invece si vive a stretto contatto con la natura e anzi magari i figli si allevano anche in condizioni così ambientali molto più favorevoli rispetto alla città. Sì, sì, assolutamente. Un altro falso mito è che noi viviamo nella preistoria, molti ci pensano con la clava, assolutamente no, abbiamo il cellulare, abbiamo il touchscreen, abbiamo Skype, abbiamo il computer, abbiamo l'asciugatrice, abbiamo tutto quello che hanno tutte le famiglie normali, solo che abbiamo messo a priori dei valori di vita che forse si sono un po' persi. Benissimo, ci addentreremo poi in queste tue abitudini tra poco, adesso però un biglietto da visita approfondito anche del libro di Silvia Mobili, appunto lo abbiamo ricordato, Di necessità menù, mangiare da re in tempo di crisi. Silvia, vivi in città, tu non hai fatto queste scelte così radicali? No, non credo di farcela, sono quelle scelte che mi piacerebbe fare ma che poi non riesco, quindi ho ascoltato queste parole in silenzio religiosamente perché veramente mi piacerebbe, ecco, vorrei ma non posso. Vabbè, però si possono fare anche altre cose, come per esempio cercare, allora intanto raccontiamo un po' questa tua trasmissione radiofonica, come funziona. Voi affrontate temi di larga attualità, no? Però sì, ogni giorno avete anche questa pillola dedicata dall'argomento del giorno, anche delle curiosità che abbiamo, anche dai giornali, quindi cerchiamo anche un po' di stuzzicare la curiosità dei nostri ascoltatori, io e Betty Senatore. Però è nato tutto questo da una rubrica che avevamo qualche tempo fa. Noi abbiamo sempre l'appuntamento quotidiano con lo chef Sergio Maria Teutonico, però un anno e mezzo fa all'incirca siamo partiti con l'idea di chiedere ai nostri ascoltatori di aprire il loro frigorifero, di vedere che cosa c'era dentro, magari sai quel pezzettino di formaggio che è rimasto da una parte e poi i funghi della sera precedente, un altro ingrediente, darci questi 3 ingredienti e poi sfidare il nostro chef per far sì che lui poi creasse una ricetta buona. A volte alcune cose, guardate, non si mettevano nemmeno col Bostic insieme. Certo, tipo la salsiccia con il branzino, ovviamente tutto. Certo, non era possibile da mettere insieme, però sicuramente un po' la fantasia, se si mette in moto qualcosa lo si può fare. E quindi insomma da questa esperienza radiofonica è nato questo libro. Quali sono i capitoli? Che cosa avete affrontato? Presentate tante ricette, ho visto, ma in realtà, in primo luogo, che è la cosa che magari poi più, come tu sai Silvia, incuriosisce anche magari gli ascoltatori di un programma radiofonico di successo, sono sempre molto curiosi di sapere quali sono le abitudini di vita, no? Dei conduttori, di chi sta dietro al microfono. Partite subito con il raccontare che cosa pensate degli avanzi, tutti e tre. Sì. Sì, perché nel libro ci sono 50 ricette, anche delle immagini a colori per vedere poi il risultato finale, poi consigli utili come preparare le salse, le confetture, e poi c'è anche il calendario della frutta e verdura, che anche questo mi sembra molto importante. E però ci sono sì le nostre abitudini, e abbiamo pensato all'inizio di parlare subito del nostro rapporto con gli avanzi, che poi è un rapporto che nasce ovviamente quando si è piccoli. Certo, aspetta lì, Silvia. La mamma disperata che esatto, che ci vuole tutto. Esatto, e non vuole vedere niente sul piatto che avanzi. Aspetta lì, Silvia, perché proprio questa è la prima parte dal tuo libro che abbiamo tratto, e sentiamo un po' come sei cresciuta tu in termini di educazione e nel tuo rapporto con gli avanzi di cibo. Sentiamo. Vietato lasciare il cibo nel piatto. A casa mia era una delle regole da seguire. Fa niente se ci si annoiava a stare seduti o se c'erano gli odiati spinaci da finire. Si doveva spazzolare tutto. Gli avanzi erano proibiti. E se un bambino in Africa non mangiava, era solo per colpa mia. La frase più gettonata di mia madre, infatti, era Pensa ai bambini del Biafra, mangia quel boccone per loro. Era un tormento, ma col tempo avevo imparato qualche trucchetto. Ad esempio, che si può inghiottire un boccone di spinaci con un bel bicchiere di acqua fresca. E intanto pensavo, con invidia, ai bambini del Biafra, così fortunati che non erano costretti a mangiare le verdure. Ma il tempo passa. E oggi mi ritrovo a dire le stesse cose a mio figlio. E anche a casa nostra vige la regola ferrea, vietati gli avanzi. Mangia che ti vengono i muscoli. Finisci il piatto che diventi alto come Roby, un signore alto 2 metri. Dai che questo è il boccone del re. E il piatto alla fine è bello vuoto. E se ci sono degli avanzi, ci si mette di ingegno per cercare di recuperarli con una ricetta nuova. A volte capita addirittura che le mie cene casalinghe migliori siano state realizzate proprio con i resti del pranzo. Basta far lavorare la fantasia. Silvia, mi hai fatto venire in mente mio nipote che odia il pesce e la madre gli impone di mangiarlo perché gli fa bene a 5 anni e ad ogni boccone fa seguire il bicchiere d'acqua. Adesso capisco perché. Guarda, è un trucco che ho imparato da piccola. Devo dire che sono stata fortunata però, perché adesso ho un bambino di 6 anni, quindi come appunto si sentiva, e lui mangia tutto, quindi come se fossi stata graziata da Dio. Certo. Non ho problemi. Stefania Rossini, a tavola, a casa tua, come ci si comporta? Il piatto naturalmente deve essere lasciato sul tavolo quando il pranzo è finito, limpido, pulitissimo, senza nessun avanzo. Sarebbe l'ideale. Per me purtroppo non succede sempre così, però va bene, anche i miei bambini, io cerco di insegnare questi valori, di non anch'io comunque ho sentito questa bellissima presentazione e sono le stesse parole che diceva mia mamma a me, mi sono ritrovata tantissimo, io non lo dico ai miei figli. Siamo cresciuti con tutti condizionati con la storia dei bambini del Biafra, poveri, però è così effettivamente, Stefania. Poi io ero una bambina anche magra, quindi mi diceva proprio che sembrava una bambina del Biafra, però i miei bambini, no, dei bambini anche a me mangiano bene o male quasi tutto, sì. Sono fortunata anch'io. Allora, che cosa cucini tu con gli avanzi, Stefania? Raccontaci un po', poi faccio dare qualche ricetta anche a Silvia Mobili, di quelle di cui hanno raccontato in radio. Stefania, cominciamo con te. Sì, guarda, raramente ci sono avanzi perché io ho il mio cagnolino Bobby alla riscossa, poverino, e mio marito, tutto quello che avanza lui finisce tutto perché odia gli avanzi in casa. Quindi però già una buona soluzione è quella, per utilizzare gli avanzi, se proprio non li si vuole rimangiare, se sia magari un animale in casa, mica povero che deve mangiare la roba che sta in frigo da 2 mesi, però effettivamente già è un buon utilizzo, comunque non si butta e non è poco. Non si butta niente, assolutamente, noi non buttiamo niente. Anche perché poi io ho anche galline e oche, quindi se proprio vanno a loro, ma è molto raro che noi buttiamo via o comunque che cuciniamo con il recupero. Capita quando magari facciamo i latti vegetali e quindi c'è il recupero del cereale o del legume e allora vabbè, facciamo le nostre schiacciatine, però noi veramente raramente cuciniamo con il recupero. Silvia, vengo da te. Allora, io vedo qualche ricetta sul tuo libro. Costine di maiale al forno con patate, questa non l'abbiamo fatta con gli avanzi, immagino, no? No, ecco, questa no, assolutamente neanche... no. Ma infatti ci sono anche delle ricette, diciamo, tra virgolette, normali. Io, se volete, me ne posso proporre una. Beh, però le patate ripiene di pesce può anche essere, no? Che il pesce della guarda, cena della sera è prima... Il gioco divertente della nostra rubrica è che a volte c'erano degli ingredienti che insieme proprio non sembrava che potessero andare bene. E invece il nostro chef riusciva a mettere, a comporre proprio una ricetta con degli ingredienti improbabili. Ecco, se magari, raccontaci un po' il primo abbinamento più stravagante che ti viene in mente, che è stato proposto dai vostri microfoni, e me lo rivendo anch'io subito stamattina. Guarda, ce ne sono tantissimi. Io devo dire che abbiamo anche dedicato un capitolo al tofu, che c'era ogni giorno che qualcuno ci diceva ho del tofu in frigorifero. Non riuscivamo proprio a capire ma come questo tofu va veramente tanto di moda. Va alla grande. Abbiamo dedicato un capitolo perché abbiamo poi capito di che cosa si trattava e come potevamo appunto proporre una ricetta. Diciamo che è tipicamente qualche volta anche un cibo che utilizzano gli allergici, no? Chi ha qualche difficoltà anche di intolleranza alimentare. Infatti. Noi guarda, una ricetta che mi viene in mente che era particolare era quella con il vitello e fin qui. Il taleggio e le pere. tutti insieme. Allora, sì, se vuoi ve la posso raccontare che due. Ma sì, dai, ma facciamo questa cosa prenatalizia, perché no? Così magari se qualcuno il menù di domani non l'ha ancora stabilito, o magari gli stiamo dando anche qualche idea. C'è ancora tempo per fare la spesa oggi pomeriggio. Vai. Ecco, allora guarda, fagottino di vitello, appunto, vitello, taleggio, pere, poi in aggiunta sale, olio, pepe, burro, brandy e farina. Sbucciate le pere, riducetele a cubetti, saltatele in padella con una noce di burro, sale, pepe, sfumatele con due cucchiai di brandy. Battete le fettine di vitello, distribuite al centro di ognuna un po' di taleggio e qualche cubetto di pera, richiudete il fagottino e passatelo nella farina. Scaldate in padella un filo d'olio, unite i fagottini e scottateli da ambo i lati. Salate, sfumate ancora con un po' di brandy e terminate la cottura. Tra l'altro, avete anche quantificato, non so se lo fate nel libro, adesso non mi ricordo, Silvia, se quantificate anche un po' i budget di spesa per questi menù che proponete? Ma guarda, di solito sono appunto degli ingredienti che rimangono della cena prima, ecco. Quindi è logico, questa, sai, questa latte, è bella anche da fare, dei porri, il pollo arrosto che è rimasto della sera precedente, quindi effettivamente sono degli ingredienti che abbiamo un po' tutti, e per non buttarli riusciamo, aspettate, lo chef Sergio Maria Teutonico riesce a trovare delle ingegnose ricette, certo. Poi ovviamente sì, ci sono anche degli articoli in cui si parla di costi, anche fare una buona cena con 10 euro, e lì il nostro chef è veramente meraviglioso, bisognerebbe averlo in casa più certo, che altro. Certo, allora queste sono le indicazioni che abbiamo dato per chi volesse inventarsi qualche menù improntandolo al volo con gli avanzi della giornata precedente, e però qualche volta chiaramente il frigo piange lacrime amare perché è vuoto e bisogna anche andare a fare la spesa. Allora Stefania Rossini, nel suo libro Vivere in 5 con 5 euro al giorno, si chiede: e se proprio dobbiamo andare a fare la spesa, come ci dobbiamo comportare? Sentiamo questo brano tratto dal suo libro. E se proprio dobbiamo fare la spesa? Attenzione, attenzione! Prendete carta e penna, aprite il frigorifero, congelatore e dispensa e segnatevi tutto quello che c'è dentro. Bene, ora con quelle cose cercate di organizzare un buon menù. Se poi non ce la fate, annotate ogni spesa e tenete tutti gli scontrini. In questo modo potrete rendervi conto di quali sono i prodotti per cui spendete di più e dove. Quindi potete migliorare. Fate una lista dettagliata di quello che vi serve e cercate di rispettarla il più possibile. Valutate bene le offerte in corso. Anche se un prodotto è in super offerta, valutate se è deperibile a breve e se riuscite a consumarlo prima di quella data. Guardate sempre il prezzo al chilo o al litro. Provate anche prodotti di marchi meno conosciuti. Portatevi sempre la borsa della spesa da casa. Fate la spesa con la pancia piena. Eviterete di acquistare snack, anche poco salutari, per placare la fame immediata. Infine, quando mettete in ordine la dispensa, fatelo in base alle date di scadenza dei prodotti, in modo che quello che scade prima sia sempre davanti. Non rischierete di utilizzare cibi scaduti o di dover buttare via qualcosa che vi eravate dimenticati di avere. Stefania, io mi riconosco in tante delle cose che ci suggerisci di fare, sicuramente non mi faccio mancare nessuna delle tante tessere soci che i centri commerciali vicino a casa mia distribuiscono, ne ho di ogni tipo, però non ho l'abitudine di guardare il prezzo al chilo al litro di quello che compro. Mi sembra un lavoro complicato, nonostante io sia la salvadanaio per eccellenza appunto di Radio 24. Come possiamo, appropriarci di questa abitudine? Ma guarda, le abitudini appunto sono abitudini, perché no, le si impara col tempo, piano piano, abitudini per abitudini, le cose secondo me vengono molto spontanee. Anch'io all'inizio, io sono partita da molto tempo fa e sono venute tutte spontanee, poi alla fine ti ritrovi che le fai ma non ti sei nemmeno accorta di averle fatte. Bel prezzo al chilo, io è proprio la prima cosa che guardo, nel senso che io non guardo quanto costa, guardo prima il prezzo al chilo e paragono solo i prezzi al chilo, perché le confezioni sono tutte totalmente diverse come peso, come grandezza, quindi sono molto ingannevoli. Certo, mi piace molto anche il suggerimento del mettere in ordine la dispensa facendolo in base alle date di scadenza dei prodotti, perché quella è una cosa che invece io faccio. C'è un altro suggerimento che non abbiamo letto nella scheda, ma lo ricordo io: cercate di frequentare un po' di più i mercati rionali, dove si trovano banchi con prezzi davvero molto bassi. Si va dal farmer market, naturalmente, al contadino, il mercatino di zona. Anche questa forse è un'abitudine della quale parliamo da tanto tempo, da quando è esplosa la crisi, ma forse ancora qualcuno non si è riavvicinato a questo modo di consumare e di comprare. Stefania, che ne pensi? Sì, anche i gas, i gruppi di acquisto solidale, chi abita in città è molto più avvantaggiato in queste pratiche rispetto a una persona come me che abita molto molto fuori in centro abitato. Anche i gruppi di acquisto solidale, si fa la spesa magari una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, occupi pochissimo tempo e si risparmia veramente veramente tanto a dispetto della qualità del supermercato. Mm-hmm. Silvia Mobili, tu con che criterio ti approcci al supermercato il sabato mattina, se ci vai di sabato? Non so, mediamente, vedendo le tue abitudini di lavoro, forse sei un po' come me, il sabato devi concentrare tutto quanto, quello che non fai durante la settimana. Bravissima, io devo dire che sono fortunata perché abito non a Roma ma a Civitavecchia, quindi è una città più piccola, dimensione Duomo, e ho la possibilità, quando ho il giorno libero, comunque il sabato, di andare al mercato sotto casa, dove sicuramente si risparmia, e spesso ci vado anche verso la chiusura, perché dato che c'è un importante mercato del pesce, verso la chiusura, pur di disfarsi del pesce che è rimasto lì, te lo mettono anche a un prezzo più buono, insomma puoi anche un po' contrattare, quindi già questo è un piccolo trucco, anche se sentivo quelli di Stefania che sono meravigliosi, me li sono anche un po' appuntati, vedo se eccoci riesco qua a farlo nel abbiamo weekend. Fatto oggi questa caramba che sorpresa fra voi due, quindi anche questo interscambio culturale oltre che gastronomico e di buone abitudini quotidiane. Ci fermiamo, abbiamo un po' di pubblicità, anche noi abbiamo le nostre, naturalmente quelle commerciali, vi chiedo un minutino di pazienza, poi ritorniamo a raccontare tutti i segreti dei vostri libri tra pochissimo. Salvadanaio. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, ancora buona giornata in questa puntata speciale della vigilia di Natale, per alleggerire un po' il clima che abbiamo tanto appesantito con tutti i temi finanziari degli ultimi mesi e li abbiamo caricati sulle spalle dei nostri ascoltatori. Oggi invece li voglio alleggerire tutti quanti e vi presentiamo due libri molto carini, molto freschi soprattutto, perché questa è la definizione che mi è venuto spontanea a dare anche a guardare le due copertine. Ve li ripresento, ne abbiamo parlato appunto a lungo anche nella prima parte del programma. Il primo è Vivere in 5 con 5 euro al giorno di Stefania Rossini. Il secondo è Di necessità menù, mangiare da re in tempo di crisi, di Silvia Mobili, Betty Senatore e uno chef, Sergio Maria Teutonico. Silvia e Betty sono due colleghe del mondo radiofonico, conducono tutti i giorni una trasmissione su Radio Capital dalle 10 alle 12, si chiama Ladies in Capital, e nell'ambito di questo appuntamento ogni giorno si parla anche di cucina, con la collaborazione di uno chef molto famoso che è appunto Sergio Maria Teutonico. Propongono delle ricette anche su spunto degli ascoltatori, e da questa esperienza radiofonica è nato poi anche questo libro, dove ci sono anche tanti suggerimenti di buonsenso per capire come poter modificare le nostre abitudini quotidiane per affrontare un pochino anche di sorriso questi tempi difficili che stiamo appunto affrontando tutti quanti. Allora, abbiamo parlato molto di alimentazione nella prima parte del programma, abbiamo parlato di ricette, cosa cucinare in 5 minuti con gli avanzi del giorno prima, abbiamo raccontato l'esperienza di Stefania Rossini che da un paio d'anni vive in cascina, alleva tutti i suoi animali, produce appunto direttamente i suoi ortaggi e molta parte credo anche della sua frutta, adesso ci racconterà un po' meglio. Però Stefania, questa è una cosa che mi è piaciuta molto, soprattutto si fa in casa i detersivi. Adesso capisco anche cucinare con gli avanzi del giorno prima, ma mettersi lì a produrre un detersivo a noi sembra, come dire, un'esperienza assolutamente untouchable, neanche ce lo possiamo immaginare di poter fare una cosa del genere. Mi dici come hai cominciato? Sì, guarda, il mio obiettivo infatti è promuovere queste idee qua, idee mie, che sono veramente semplici queste cose, sembra veramente fuori dal mondo, ma sono semplici. Io il detersivo per i piatti lo realizzo con del semplice limone, aceto, acqua e sali. E il detersivo per la lavatrice utilizzo il sapone di Marsiglia, in questo caso io me lo faccio, ma ovviamente io ho molto tempo a mia disposizione, si può utilizzare anche il sapone in commercio. Quindi tu da quanto tempo non compri un detersivo al supermercato? Guarda, no, sinceramente ogni tanto lo compro, io faccio la spesa, allora, più o meno un litro di detersivo per i piatti all'anno io acquisto, e un flacone di detersivo per lavatrice all'anno, questo è il massimo che io acquisto di detersivi chimici e anche compreso anche per la nostra igiene, perché io acquisto solo lo shampoo, poi tutto il resto mi faccio io, le uniche cose tra virgolette chimiche che poi lo shampoo biologico, acquisto solo quelle cose lì, poi il resto mi arrangio da sola, ma con bicarbonato, aceto, soda Solvay, che non è la soda caustica, non confondiamoci, il sapone di Marsiglia, in questo caso anche il sapone ce lo facciamo noi, anche con l'olio esausto che magari alcune pizzerie lo butterebbero via e inquinerebbero oppure dovrebbero pagare per questo smaltimento. Cosa ci fai con l'olio esausto? Il sapone. E come lo fai? Il sapone spaventa molto il fatto di fare il sapone in casa, ma se, con le dovute precauzioni è semplicissimo e a me non è mai successo niente. Semplicemente con dell'olio e la soda caustica a contatto con l'olio, dopo 4 settimane, dalle 4 alle 8 settimane di stagionatura, diventa completamente al 100% biodegradabile e ottimo sulla pelle, oppure meglio ancora ottimo sui panni. Veramente è eccezionale, per chi lo prova non riesce più a farne a meno. Ecco, tra l'altro Stefania, no, quello che vorrei anche specificare, perché è giusto che si dica anche che naturalmente tu tutte queste abitudini nuove che hai adottato per te e per la tua famiglia le hai adottate sia per risparmiare, quindi a beneficio, a vantaggio del portafoglio, ma anche perché comunque hai a cuore, come dire, le problematiche ambientali, per cui ognuno di noi, se facesse solo un piccolo gesto per prendersi cura dell'ambiente in cui vive, sicuramente saremmo tutti un po' meglio. Sì, infatti io non promuovo il fatto che la donna debba per forza stare a casa, anzi tutt'altro, io ho avuto questa condizione che purtroppo non posso uscire da casa lavorando perché ho comunque 3 bambini, pagare la babysitter per 3 bambini non avrebbe senso per il reddito che potrei avere io, quindi mi sono ritrovata a casa, però tutti noi anche con piccolissimi gesti, non c'è bisogno di farsi il sapone in casa, si possono fare anche piccoli gesti, anche solo il fatto di cucinare con gli avanzi come dicevamo prima è un piccolo gesto, ma che se fatto da tutti diventa grandissimo. Allora Silvia Mobili, attenzione, se devi lavare i vetri in casa ti dico che cosa devi utilizzare per farti il prodotto lavavetri: 150 ml di alcol denaturato, 150 ml di aceto di vino bianco, 200 ml di acqua, unire il tutto in uno spruzzino, agitare bene e il gioco è fatto, hai capito? Ho capito, guarda, ma penso proprio che sarà uno dei miei propositi per il 2013. Vediamo, dopo ci risentiamo e vediamo che cosa abbiamo sperimentato, dei reciproci suggerimenti dei vostri, perché io ancora non vi ho dato un bel niente, io sento e basta. Silvia, adesso ritorno con te, ma prima vorrei far risentire una parte del tuo libro invece, e in questo caso parliamo, aspetta che lo ritrovo, della spesa che non pesa sul conto corrente. Ecco che Filippo trova questo contributo, sentiamo. La quantità di volte in cui siamo usciti di casa per comprare al supermercato un pacco di sale grosso, ma siamo tornati con 3 sacchetti pieni di prodotti vari, senza ovviamente il sale, non si conta. Le abbiamo provate tutte per cercare di non comprare più del necessario, ma c'è sempre qualche prodotto a cui non avevamo pensato proprio che puntualmente finisce nel carrello. Abbiamo sentito dire che sarebbe opportuno preparare una lista delle cose da comprare, che bisognerebbe andare a fare la spesa a stomaco pieno e guardare più in alto. Siamo abituati a leggere da sinistra a destra, e proprio a sinistra, sono posizionati i prodotti più costosi, mentre a destra quelli più economici. Non è l'unico trucco utilizzato dalle grandi catene di supermercati per farci spendere di più. E poi, riuscite mai a trovare senza difficoltà i prodotti più economici come il famoso sale grosso? Vengono sempre posizionati in fondo al supermercato. Così, prima di arrivare a comprarlo, ne prendiamo molti altri che spesso non servono. O ancora, l'assaggio di un cibo che ci viene offerto da una simpatica hostess non è un modo per ringraziarci della nostra presenza nel negozio, ma per liberare i succhi gastrici dello stomaco che reclameranno altro cibo e quindi acquisti sconsiderati. Uomo avvisato. Silvia, è come un po' l'ovetto Kinder o tutti quei cioccolatini che vengono messi nella cassa a portata di bambino, ad altezza di bambino, no? Chissà quante volte ti... infatti quando sei vicino alla cassa. Questo infatti l'ha scritto Betty Senatore, che è una ragazza single e quindi ha un maggiore problema rispetto a me, dove quando vado al supermercato ci sono tante offerte, soprattutto per le famiglie. Per lei che è single, effettivamente andare al supermercato vuol dire spendere tanti soldi per comprare dei prodotti pensati per le famiglie e non certo per chi vive da solo, e quindi vuol dire anche sprecare tante cose che vengono lasciate nel frigorifero e che non poi vengono utilizzate. Un'altra strategia utilizzata dai negozi e dai centri commerciali per attirare i consumatori e soprattutto per farli cadere nella rete dell'acquisto è il profumo diffuso, che si dice nel libro non è mai frutto del caso, ma spesso sarà odore di pane appena sfornato, rassicurante e rasserenante, oppure un profumo che noi percepiamo buono come l'odore di zenzero, lavanda o arancia. Quante ne utilizzano di strategie, Silvia? Tante, effettivamente. Anche la musica che viene trasmessa nel supermercato addirittura influenza il nostro modo di camminare, di fermarci davanti agli scaffali. Il trucco della lista è meraviglioso, cioè tutti quanti noi dovremmo fare una lista a casa e poi portarla al supermercato e comprare solo le cose che sono inserite in questo elenco. Il mio problema fondamentale, nonostante io sia una madre di famiglia, è che puntualmente mi dimentico la lista a casa. È proprio un classico. Ecco, certo. Quindi torni a casa con la metà dei prodotti che hai scritto lì, ma con il doppio dei prodotti rispetto a quelli che ti servivano. No, leggo ancora una parte di questo capitolo perché è divertente. Questo succede in America, però per fortuna non qua. Almeno credo, spero. State attenti anche all'odore del vostro libretto di assegni. Una banca americana ha sperimentato di cospargerlo di olio di rose per fidelizzare i clienti e ha incrementato così il numero degli assegni emessi. Dubito che fosse olio di rose, forse era qualche altro prodotto, Silvia, che dici? Che assomigliava, ma ecco. Meno male che non siamo negli Stati Uniti, va, prendiamola così, che possiamo pagare anche ancora in contanti, soprattutto appunto, come diceva anche Stefania, nei mercati rionali, dove sicuramente si risparmia. Oltre che anche la bellezza, no, di conoscere il rivenditore, comunque la persona, il fruttivendolo, il pescivendolo che sai, insomma, a cui ti puoi affidare ciecamente. Stefania, stiamo quasi per concludere tra l'altro il nostro secondo blocco, ma ti vorrei chiedere un po' se ti porti mai i tuoi bambini quando vai al supermercato. E come combatti con loro? Raramente vengono come i miei bambini quando vengono, quelle poche volte che vengono, voglio questo, voglio quello, perché sanno benissimo che in casa non esistono quelle cose che si trovano lì messe apposta per loro, alla loro altezza. È tutta una tattica psicologica. Io certo. Ho lavorato nei supermercati e ci facevano i corsi. Quello di cui parlavamo prima, io ho fatto i corsi per ingannare il cliente che si lascia ingannare, però sottolineo, perché il cliente spesso si lascia ingannare, perché se fai un po' funzionare quella tattica di io non mi faccio fregare, forse davvero non riescono a fregarti. Allora, visto che in casa tua non sarà mai comparsa una merendina per i tuoi bambini, che cosa prepari per merenda? No, vabbè, a volte capita, l'eccezione che conferma la regola anche a casa nostra. E anche tu qualche volta dovrai respirare, non puoi star sempre lì a fare detersivi e ricette, naturalmente. Un attimo che ti vuoi riposare, il bambino viene accontentato con qualcosa di confezionato. Se no, mediamente, che cosa prepari? Ma mediamente noi prepariamo adesso prepariamo le focacce, facciamo il pane, facciamo le brioche con la pasta madre, niente lievito chimico, ci siamo fatti anche il panettone in questi giorni con lievito madre, ci facciamo le torte anche con gli avanzi, come parlavamo prima, con l'avanzo del latte magari di soia oppure il latte di cereali che ci facciamo in casa, facciamo la crema di nocciole, ce la facciamo noi. Aspetta lì che poi voglio proporre la ricetta ai nostri ascoltatori, la proponiamo nell'ultima parte del nostro programma. Tra pochissimo, sappi però intanto, Stefania, che visto che stai qua vicino Brescia, uno di questi giorni vengo anch'io a fare una di queste merende. Te lo preannuncio già in anteprima mondiale, quindi aspettaci, magari mi porto anche Silvia Mobili. Silvia, andiamo a fare una degustazione nella cascina di Stefania Rossini. Ci sentiamo tra pochissimo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Salva Danaio. Ultima l'ultima parte di Salva Danaio. Ancora buongiorno da Deborah Rosciani, questo Salva Danaio della vigilia di Natale. Vi presentiamo due libri. Stefania Rossini ha scritto Vivere in 5 con 5 euro al giorno, mentre Silvia Mobili con Betty Senatore, due voci molto note della radiofonia italiana, insieme a uno chef, Sergio Maria Teutonico, hanno scritto Di necessità, menù, mangiare da re in tempo di crisi. Silvia, volevo ritornare un attimo con te prima di sentire la ricetta per fare lo scrub al cacao di Stefania Rossini, la ricetta per farsi la Nutella in casa, anche se il signor Ferrero stamattina si solleverà appunto sulla sedia. Vorrei andare così un po' a pizzicare tra le varie idee che ci proponi nel tuo libro. Pesco l'indice e così magari mi racconti un po' più approfonditamente che cosa trattate in questi capitoli. Il capitolo a pagina 125 che si intitola Il carciofo equivocato. Te lo ricordi al volo, Silvia? Vediamo se me lo ricordo al volo, sì, anche perché ricordiamo le ricette sono di Sergio Maria Teutonico. Io lo ripeto spesso più che altro per correttezza, giustamente. No? Non solo per correttezza, ma anche per rassicurare i nostri ascoltatori, perché io sì, sono una mamma di famiglia e un po' me la cavicchio in cucina, anche perché mi appassiona. Però ecco, la Betty non se la cava altrettanto bene, tant'è vero che giorni fa ha anche incendiato il suo piano di cottura. Santo Quindi cielo. Sappiate che le ricette sono prossimo serie. Libro su un altro argomento, insomma. Ma però, insomma, andando al carciofo equivocato, ma anche i nostri animali, intervista con il veterinario, avete affrontato tanti argomenti. Sì, c'è anche la dieta, per una dieta sana, non quelle diete dimagranti. Questa parola è bandita da questa trasmissione. Ecco, sì, è vero. Però ecco, il caso del carciofo equivocato è un caso che è prettamente romano, perché ci sono le persone che parlano, no, dei carciofi alla romana e le chiamano carciofi alla giudia, la Giudea, come se fosse la stessa cosa. Invece i carciofi alla romana sono un umido di carciofi conditi con pangrattato, prezzemolo e vario. Invece i carciofi alla giudia sono i carciofi quelli di Roma, romaneschi, fritti dentro l'olio e diventano croccanti, poi sono serviti caldi caldi, certo. E sono una squisitezza. Vedo che vi siete vestite anche da nonna papera a confezionare delle gran marmellate e gran confetture. Sì, però facci caso, Deborah, che io in mano ho una torta. Betty Senatore, nella copertina. Non c'è bel niente. Dice, boh, non lo so. Ne fai in casa? Ti sbizzarrisci, ti inventi anche di fare le torte? Non è proprio semplice, so fare tre cose dolci. Guarda, un bambino a cui piace molto cucinare, lui da grande vuole diventare chef, quindi passiamo i pomeriggi spesso a cucinare le torte, non magari come belle come quelle di e buone come quelle di Stefania, però ce la mettiamo tutta. Allora, a proposito di Stefania, visto che è stata citata, Stefania, oltre a fare tante ricette dalle varie animali, a fare anche detersivi in casa, fa anche dei prodotti di bellezza per prendersi cura ovviamente della propria persona. Sentiamo un po' come prepara e con quali ingredienti lo scrub al cacao. Scrub per il viso e il corpo al cacao. Preparare un composto cremoso con un cucchiaio di cacao amaro o zuccherato, a vostro piacimento, un cucchiaio di sale fino, un cucchiaio di bicarbonato, tre cucchiai di olio extravergine di oliva o di olio di mandorle dolci. Stefania, io l'ho detto all'italiana, lo scrub è un po' come plus e plus, eccetera, insomma c'è il solito conflitto. Scrub o scrub, in ogni caso anche questo si può fare in casa per la nostra pelle. Stefania Rossini? Sì, eccoci qua. Sì, lo possiamo fare in casa e con la stessa ricetta possiamo sostituire anche il cacao con il caffè esausto che magari butteremmo via. Avremo lo stesso utilizzo ed è fenomenale perché lo avremmo buttato via anche, ecco, il caffè. Tra l'altro questi sono prodotti che tipicamente si regalano anche in questo periodo, no? Magari il bel bagno schiuma, perché magari è un articolo da regalare con il quale adesso si spende poco, però magari si fa una bella figura con un amico o un'amica, la si farebbe ancora più bella se addirittura si presentasse un prodotto fatto in casa. Come fai bagni tonificanti e rilassanti? Raccontacene un paio. Bagni tonificanti e rilassanti, ma guarda, io purtroppo da 4 mesi non ho più la vasca, purtroppo ho solo la doccia, però quando avevo la vasca... E tanto il bagno schiuma ci serve lo stesso, quindi... Ma no, io non lo uso il bagnoschiuma, non l'ho mai usato da 3 anni a questa parte, uso solo il mio sapone. Utilizziamo il nostro sapone, il bagnoschiuma è bandito da casa nostra, perché comunque se guardiamo gli ingredienti io mi spaventavo, e allora è una delle prime cose che abbiamo proprio eliminato, utilizziamo solo il nostro sapone e lo shampoo che ho, quello lo acquistiamo ancora perché non riesco a trovare bene la ricetta economica e pratica. Tra l'altro tu dove le prendi queste idee? Perché non è che ti sarei svegliato una mattina e avrei detto ma va, guarda, stamattina mi metto a fare il sapone. No? Sì. Ecco, dove no, ti sei informata e documentata? Ecco. Sì, guarda, si trova tutto online, si trova tutto in internet, è una miriade di informazioni, dipende poi noi come le utilizziamo e il tempo che noi impieghiamo sul web come lo sfruttiamo. Io l'ho sfruttato cercando queste ricette, ho cercato quella magari più economica, più con ingredienti basici, con ingredienti che tutti abbiamo in casa, le ho provate, le ho sperimentate, quelle che mi piacevano poi le ho inserite sia nel blog che nel libro. Allora, ci vuoi ricordare l'indirizzo del tuo blog, così magari si può aprire anche un altro fronte di scambio di idee, no? Per chi ascolterà stamattina la trasmissione. È un indirizzo piuttosto lungo, quindi ce lo devi ricordare tu, Stefania. Naturalmente Stefi si chiama. E sottolineo che anche il baratto, parlavamo di baratto, sì. Anche il baratto è parte fondamentale della mia vita, anche barattare i prodotti che io realizzo è una mia quotidianità. Allora, visto che abbiamo anche stuzzicato i nostri ascoltatori con la ricetta fai da te di Stefania Rossini della Nutella, adesso ce la dobbiamo sentire. Nutella fai da te. 100 g di cioccolato fondente, 50 g di nocciole, 60 ml di olio vegetale, 80 g di zucchero di canna, 100 g di latte di soia. Tritate le nocciole con lo zucchero e il cioccolato nel frullatore. Aggiungete il latte di soia e l'olio e mescolate per bene. Lasciate cuocere a bagnomaria finché la consistenza non sarà quella della classica crema di nocciole in commercio. Tenetele in frigo perché non contiene conservanti. Allora, ad Alba, in provincia di Cuneo, sicuramente si saranno un po' arrabbiati per aver sentito questa alternativa della Nutella, che ci perdonino naturalmente, però noi siamo qua aperti e liberi a raccogliere ogni idea e questa ci stuzzicava particolarmente. Silvia Mobili, invece, venendo a te, che cosa presenterai domani sulla tua tavola per il giorno di Natale? Hai già pensato al menù? Un menù che magari così sarà anche un po' il frutto dell'aver ripercorso le ricette che avete scritto in questi mesi con Sergio Maria Teutonico e Betty Senatore. Ma guarda, a me piace molto la tradizione, quindi ovviamente stasera si mangia pesce, dalle alicette a qualche frittino, e domani ci saranno i tortellini in brodo. Il brodo, ad esempio, che non va fatto, come dice il nostro Sergio Maria Teutonico, non va fatto con la pentola a pressione, ma va fatto bollire con amore, con pazienza, perché anche quello è sicuramente un ingrediente importante quando si cucina. Quindi questo mi sembrava il minimo sindacale. Mi stai dicendo che c'è qualcuno che fa il brodo con la pentola a pressione? Ebbene sì, guarda, l'abbiamo anche proprio scoperto durante i nostri momenti radiofonici, gli ascoltatori che per fare presto utilizzano, e sono tanti, sai Deborah, utilizzano la pentola a pressione. Altre abitudini stravaganti con le quali vi siete imbattuti, abitudini alimentari, di consumo, cose curiose che vi hanno raccontato i vostri ascoltatori in questi mesi, Silvia? Sì, ecco, abbiamo visto appunto questi nuovi ingredienti che possono essere il tofu, ma anche le varie salse che vengono dall'Oriente, e quindi abbiamo capito che sicuramente cominciano a far parte anche della nostra cucina, e questo è importante anche quando si presentano delle ricette. Certo, Stefania Rossini, naturalmente devo chiedere anche a te il menù della vigilia e il menù della giornata di Natale. Ma noi mangeremo tranquillamente quello che mangiamo gli altri giorni, non c'è mai stato un menù particolare per noi. Ma neanche un pandorino un po' magari agghindato? Sì, facciamo il panettone noi in casa, quello sì, l'abbiamo già fatto e lo faremo ancora, quello sì. No, dacci la ricetta immediatamente, quanto tempo ci vuole per farlo il panettone fatto in casa? 4 giorni. Ah beh, quindi devi impegnare un po' di più, poi sì. Naturalmente un po' di canditi, un po' di uvetta, quelle anche facili. L'ho fatto col cioccolato. Guarda, è il mio preferito in assoluto, già te lo dico, e quindi niente. Allora, insomma, ci sono tante cose divertenti. Stefania, adesso faccio fare un ultimo scambio di idee. Che cosa ti è piaciuto di più di quello che hai sentito da Silvia Mobili, tratto dal suo libro, che naturalmente forse non hai letto, però speriamo di averti incuriosito stamattina, di Necessità Menù, Mangiare e Dare in tempo di crisi? Beh, mi è piaciuto tantissimo perché trattano veramente tanti argomenti, essendo in tre come autori, tre teste fanno tre bellissime cose, perché comunque ognuno mette nel contenitore qualcosa di proprio, e quindi secondo me è molto stimolante come libro, perché trattano veramente di tantissime cose. Inoltre poi comunque cucinare con gli avanzi non se ne parla mai abbastanza, secondo me. Certo, no, senti, tra l'altro adesso vado anche a Silvia e le faccio la stessa domanda, però c'era un'altra cosa che volevo chiederti, Stefania, perché tu nel riorganizzare le tue abitudini appunto familiare hai anche adesso un piccolo allevamento di animali, ma voglio dire, non è che ci si inventa anche lì allevatori da un giorno a un altro, è stato complicato? Assolutamente, io ho le mie adorate animali che non verranno mai mangiati e macellati, ma ci servono solo per le uova, perché io sono vegetariana da 20 anni. Ho capito, quindi vabbè, tu diciamo che hai proprio delle abitudini e uno stile di vita abbastanza radicale e drastico, però ci sta, via di mezzo, ognuno di noi può fare dei miglioramenti dello stile di vita senza arrivare magari a, come dire, rivoluzionare completamente le proprie abitudini. Sì, Silvia, assolutamente sì. Che cosa ti ha stuzzicato della proposta di vita e di lettura anche di Stefania Rossini? Allora, mi sono appuntata innanzitutto come si posizionano i prodotti comprati al supermercato nella dispensa, quindi in base alla scadenza, che non ci avevamo pensato. Poi sicuramente mi regalerò il 1° gennaio uno scrub al cioccolato, e devo dire che poi il libro di Stefania lancia lo stesso messaggio che lanciamo anche noi, che non viviamo in un mondo dove tutto è disponibile all'infinito, e quindi bisogna riciclare, bisogna avere fantasia, bisogna avere anche tanto amore e ricordarsi che noi siamo fortunati e c'è gente che invece non lo è. E infatti, allora io invece vi prometto che mi autoprodurrò il lavavetri, perché questo lo voglio provare, perché è davvero semplice, poi chissà che da lì non possa fare anche qualcos'altro, tempo permettendo, perché le nostre vite sono anche un po' impossibili. Stefania Rossini, grazie per essere stata con noi, buon Natale a te, ai tuoi bambini, tuo marito e alla tua vita in provincia di Brescia. Buona giornata. Grazie mille a voi, grazie. Grazie Silvia, anche a te naturalmente, alla tua famiglia, i tuoi colleghi, salutaci tanto Sergio Maria Teutonico e Betty Senatore, e naturalmente così ritroviamoci magari al più presto per raccontare un po' altre cose divertenti. Buon Natale. Vediamo anche se poi siamo riuscite davvero con i nostri propositi nel 2013. E soprattutto se qualcuno le ha ascoltate, chissà che non gli sia venuta qualche idea. Ho terminato questa puntata di Salvadanaio, grazie a Laura Fagine per avermi aiutato in redazione, a Filippo Aureggi in assistenza tecnica. Noi ritorniamo il 27 con Salvadanaio. A tutti, buon Natale.